Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Sport 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ritengo che sia molto importante far notare che questa conferenza viene fatta un giorno prima dell'inizio del calciomercato. Poi che tutti parlano di mercato è giusto, giornalisti, addetti ai lavori e tutto il resto, ma che noi chiariamo questo aspetto nel rispetto, soprattutto, scusate il giro di parole, di tutta la comunità, della società del Parma e di Cassano stesso, prima ancora che inizia il mercato, penso che sia da apprezzare. E quindi va via dal Parma, a posto. Non avevamo capito veramente nulla, carissimo Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Benissimo, Cassano va via dal Parma. Sì. Certo. No, avevamo capito benissimo. È meraviglioso che il mercato di gennaio, che è iniziato ufficialmente questa mattina, sia iniziato con un non colpo, che è quello di Parma. Anche se, devo dirti, questa mattina leggendo i giornali, caro Pier, ho letto interpretazioni maligne, cattive. Cioè, c'è qualcuno, credo il Corriere della Sera addirittura, che ha titolato "Il ripiego di Cassano, resta Parma perché la Samp non l'ha cercato". Veramente siamo... Che ti devo dire? Io penso che innanzitutto che il mercato è lungo quanti giorni? 28. Sì, 28. Quindi se Cassano avesse voluto mettersi sul mercato poteva mettersi in stand-by, no? In una posizione poteva non far nulla. Invece in realtà quello che mi risulta per insomma essere stato a casa sua pochi giorni fa e per parlarci abbastanza di continuo è che lui a Parma sia benissimo. Chiaramente la Samp è una questione diversa perché è una questione di cuore e credo che questo anche i tifosi del Parma glielo potranno perdonare e quindi magari per la Samp avrebbe fatto un'eccezione, ma siccome di questa storia della Samp ne parlavano i giornalisti, ne parlavano i giornali ma non ne parlavano i diretti interessati e di fatto non c'è mai stata questa possibilità, secondo me hanno fatto benissimo a fare questa conferenza stampa, anche perché veramente io insomma Cassano da un po' di anni che lo conosco, ci sono stati dei momenti della sua vita nei quali l'ho visto inquieto e poi però caro Perci, ecco, dovrei stavolta spiegare sta molto molto bene. Ci dovrei spiegare che cosa ha combinato nelle ultime settimane, perché è stato lui a dire "sono stato ingestibile, chiedo scusa, ne ho fatte di tutti i colori", e nessuno ha capito, anche perché nulla era trapelato. Ne ha fatta una, lo sappiamo benissimo cosa ha fatto. Non è andato per pigrizia, secondo me aveva qualche linea di febbre, non è andato al centenario. Ha saltato la festa. Ecco, aveva qualche linea di febbre, ha saltato la festa e per carità, sicuramente qualcuno si sarà anche arrabbiato, non discuto, però dico, insomma, mi sembra in generale, per me i calciatori si giudicano al campo e... Poi io non voglio fare l'avvocato di Cassano, nel senso che il mio rapporto con lui è un buon rapporto, ma insomma questo non toglie che lui abbia fatto un sacco di errori nella sua carriera e che poteva fare molto meglio, però non toglie nemmeno i 7 gol stagionali, compreso quello in Coppa Italia, gli assist e le prestazioni. Sì, sta facendo una buona stagione, non c'è dubbio. Intanto in attesa di collegarci con Carlo Laudisa, con cui apriamo ufficialmente questo mese di mercato, poi ci farà parlare tanto, anzi 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta anche per dirci che cosa ne aspettate. Caro Piero, io lo so che tu sei lì, che lo aspetti il nome dell'arbitro di Juventus Roma. Sì. Sì, non è Web. No, già lo so. Immagino. Non mi cambia niente, però sì, certo. Nicola Rizzoli, bello, diciamo a quei pochi che non lo sapessero, perché in Italia facciamo così, ma non solo in Italia, guai a te se mi dici che siamo gli unici. L'arbitro di Juventus Roma è Nicola Rizzoli. La Juve ha perso 2 delle ultime 3 partite arbitrate da Rizzoli, Fiorentina 4-2, Milan 1-0, ma la Roma ha perso con Rizzoli 4-1 a Torino un anno fa, la partita dei 3 gol nei primi 20 minuti. Quindi detto questo credo che ne parleremo poi anche dopo le 14:30, quando metteremo a confronto Carmine Fotì e Claudio Zuliani, un grande Juve-Roma, un grande anticipo, perché non so se hai letto l'intervista di Totti sul Messaggero, bellissima intervista tra l'altro, ha detto alla Juventus l'aiutino continua ad arrivare, speriamo che siano involontari. Ma sì, ma insomma a Roma lo sappiamo quello che pensano, non è che c'è da girarci attorno, l'hanno anche detto in maniera abbastanza precisa, c'è sempre comunque questa atmosfera un po' da vento del nord. Quest'anno ci sono stati un paio di episodi, un paio di situazioni che hanno fatto arrabbiare la Roma. De Rossi l'ha detto con chiarezza che lui non si sente defraudato dal punto di vista della Roma, ma pensa che la Juve abbia avuto qualche punto in più. Io onestamente su questo piano non scendo proprio, non mi interessa, però insomma, fa parte diciamo degli elementi polemici che rendono questa partita ancora più affascinante. Sì, guarda cosa scrive Enrico su Twitter, chiocciola tutti convocati: allora parlateci dei rigori, quelli della Roma sono 5-0 contro per la Juve, 2 a favore e 1 contro, e poi a Roma si sentono penalizzati. Totti anche... No, ma infatti guarda, è un piano, posso dirti, non esci mai vivo, anche perché poi se è difficile valutare l'episodio della singola partita, è ancora più complicato fare una sintesi, un bilancio di tutte le giornate, nel senso che devi mettere insieme veramente tutto e non è sempre facilissimo, ecco, questo sinceramente. Io credo che ci sia un solo episodio veramente di partita che è girata per una situazione clamorosa nel campionato della Juve, ed è Chievo-Juve, perché poi le altre partite, le altre situazioni mi sono sembrate abbastanza normali. E Torino-Juve, io lo ribadisco, era una partita che la Juve dava la sensazione di poter portare a casa, anche se sicuramente i tifosi del Torino dicono vabbè, tu non dai il gol in fuorigioco e ce la giochiamo, sì, quel gol in qualche modo può succedere, in qualche modo è inciso poi sul risultato. Però abbiamo tempo per parlarne, Pier, così come avremo tempo per parlare di un'altra frase di Totti che fa discutere, cioè la Roma è più forte della Juventus presa singolarmente, giocatore per giocatore, poi loro sono un gruppo più affamato. Non so cosa ne pensi tu, tienitela per le 14:30, chiedo anche gli amici da casa, 800 24 00 24. Mi piacerebbe ad esempio capire che cosa ne pensano, cioè se c'è un giocatore della Roma, di questa Roma ad esempio, che farebbe il titolare nella Juventus. Intanto saluto Carlo Laudisa, prima firma della Gazzetta sul mercato. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno, auguri a tutti. Si usano ancora, no? Sì, si può fare ancora, non siamo in ritardo. Ciao. Carlo Laudisa, che oggi ha firmato il pezzo che secondo me ha guastato la colazione a molti tifosi della Juventus, quello su Pogba e sull'offerta shock del Paris Saint-Germain, 7 milioni di euro a stagione, non si parla di gennaio, si parla di giugno. Lasci trasparire tra le righe un certo pessimismo sulla possibilità che la Juventus possa resistere eventualmente a un'offensiva del Paris Saint-Germain, Carlo? Ma io lo definirei più realismo. Pessimismo no, perché c'è ancora troppo tempo, però non è casuale che ieri Nasser Al-Khelaifi, il presidente del PSG, abbia parlato a tutta la stampa francese, no? E quindi è stato un discorso programmatico che evidentemente, come c'è l'occhiello della campagna estiva, avrà proprio Paul Pogba, che sicuramente noi lo stiamo apprezzando per le qualità tecniche, ma in prospettiva per un PSG un po' straniero in Francia ha bisogno anche di emblemi. Sì, sarebbe un simbolo portarsi a casa, appunto, il talento francese di prospettiva. Emergente, appunto. E quindi è chiaro che questa è una offensiva a cui la Juve si sta preparando a resistere. Peraltro l'altro elemento di cronaca casuale, se vogliamo, perché non può avere attinenza con la trattativa, ma il fatto che ieri Mino Raiola fosse ospite d'onore a Doha del sceicco per l'amichevole di lusso PSG Real Madrid è l'altro elemento di cronaca che tu dici che è un caso, perché Mino raramente si muove così, no, senza che ci sia Mino, qualche secondo fine. No, ma la cosa bella è stata che in questi giorni il nome di Mino Raiola, ovviamente associato a Mario Balotelli, è stato avvicinato a varie altre città per presunte trattative sulla cessione di Balotelli, e lui è rimasto a Monte Carlo. Però evidentemente la chiamata dello Scicco non ha potuto rispondere, e quindi ha fatto questo blitz che diplomaticamente ha una sua valenza. Non so, questo sinceramente non lo so, se poi abbiamo parlato anche d'altro, non credo ce ne fosse. Sì, difficile si sia aperta una trattativa. Sai Pier che cosa penso io? Che per la Juventus sarebbe una meravigliosa opportunità eventualmente a giugno cedere bene. Stiamo parlando di cifre altissime, Carlo, eventualmente 50-60 milioni, giusto? Sì. Non andiamo sotto, sarebbe un'opportunità, potrebbe fare ad esempio quello che ha fatto il Napoli negli ultimi due anni. Conte quest'estate ha più volte detto che il Napoli si era rinforzato cedendo Cavani, potrebbe essere una sfida anche, Pier. Beh, l'esempio secondo me migliore da questo punto di vista è quello della Roma, nel senso che Carlo, che fra l'altro vorrei convocare per lunedì sera a Tiki Taka, facciamo il primo esempio di convocazione. Vabbè, a tutti i convocati fa bene. Ecco, ti facciamo il primo esempio di convocazione. Quindi ci sarai, Carlo? Ci sarai? Come posso dire no, Pierluigi? Scusa. Perfetto, qui, questa cosa punto, l'abbiamo fatta in diretta. Punto, ok. No, stavo dicendo che secondo me, Carlo lo potrà confermare, ci sono alcune società che è come se avessero il tasso di conversione, il tasso di cambio. Cioè ci sono delle squadre che per la loro ricchezza economica mostruosa hanno la possibilità di pagare di più e quindi pagano di più. È stato il caso del primo Chelsea, dell'inizio dell'era Abramovic, il caso del Manchester City, adesso sicuramente il Paris Saint-Germain. Dicevo, il caso della Roma è emblematico perché la Roma quest'anno non soltanto ha venduto, ma ha venduto molto bene, e ha venduto molto bene a società che hanno i soldi, la cessione di Marquinhos, la cessione di Lamela che aveva appena venduto Bale. Cioè è fondamentale questo elemento, perché il Paris Saint-Germain ti può dare per uno come Pogba sicuramente il doppio di quello che ti darebbe un'altra società. Quindi detto questo, per me Pogba è in prospettiva il miglior centrocampista d'Europa. Sì, ma tu ce lo vedi Conte che si rifà la squadra col mercato in cessione di Pogba? No, è chiaro che non è una cosa. Secondo me invece sarebbe una bella sfida. L'ha detto lui a settembre che Benitez era un privilegiato a poter spendere sul mercato, poter scegliere Higuaín, a fare una squadra più forte. L'anno in cui ha venduto Ibrahimovic, in estate, nel momento nel quale si era capito che Ibrahimovic sarebbe andato via, c'erano probabilmente molte vedove di Zlatan, no? Tante volte vendere è più importante che acquistare. Quindi, poter vendere, mi pare di capire che non è questo il caso secondo te, Pier. Carlo, ci dobbiamo fermare per il traffico, ripartiamo da qui. Tutti convocati. 800 24 00 24, scrive un amico juventino, Marco, al 349 238 6666: se ne sono andati Zidane, Thuram, Henry, Vieira e Anelka, sopravviveremo pure a Pogba, Trezeguet e gli altri sono di altra classe. Poi qualcuno ci sta scrivendo, caro Pierre, dicendoci che giocatore della Roma inserirebbe nell'undici titolare della Juventus di Conte, però ti ripeto, abbiamo tempo per parlarne. Carlo Laudisa, io ho un po' di domande che ci suggeriscono anche gli amici da casa. Sì, no, io rispondo con le sue domande, però volevo completare la cronaca. Prego. Perché in questa agenda di Mino Raiola la prossima settimana c'è l'appuntamento con Marotta per il rinnovo di contratto di Pogba, che è l'attualità, per cui non vorrei dare troppe. Ma è un rinnovo che blinda Pogba o è un rinnovo semplicemente scontato, dovuto anche per il valore del giocatore, e poi se ne riparla fra sei mesi? E lo vedremo poi nei prossimi mesi, però non c'è un atteggiamento remissivo della Juve, perché non dimentichiamo, adesso tutti i fari sono su Pogba perché chiaramente è il talento di maggior prospettiva, però in casa Juve c'è un altro giocatore per esempio molto ambito, che è Vidal, che già in estate è stato fermato con un rinnovo importante, quindi la Juve si sta preparando anche a decidere per il meglio. Io, per mia impressione, ho la sensazione che la Juventus, semmai in estate, preferirebbe sacrificare Vidal magari per 40 milioni piuttosto che Pogba almeno per un altro anno. Pirlo rinnova o no? Secondo me alla fine rinnoverà. Rinnova, le cifre sono quelle che abbiamo letto, che hai scritto anche tu, intorno ai 2 milioni e mezzo di euro. Ma penso che lui ancora si devono sedere su questo argomento. In questa fase è ancora da dibattere la lunghezza del contratto, perché Pirlo parte da una richiesta di 3 anni, non so se si fermeranno a 2, poi modellato questo tipo di accordo verrà anche il resto, sarà più semplice, conseguenziale, sì. Comunque è chiaro che la Juve in questa fase deve gestire con intelligenza, cosa che ha fatto anche in passato, per poter rinnovare le ambizioni che evidentemente sono intatte del club, perché il club vuol vincere e sicuramente sarebbe un brutto segnale quello di indebolirsi, perché poi tecnicamente si indebolirebbe. Restando nell'agenda di Mino, mi interessa, e non so a te caro Pier, anche di Balotelli, che si parla di questo interessamento di Roberto Mancini, soprattutto si parla sempre più ad alta voce anche della volontà di Silvio Berlusconi di farlo partire. C'è qualcosa in agenda o no, Carlo? Ma io credo per gennaio assolutamente no. Quella di Balotelli è una partita che si giocherà su tutti i fronti nei prossimi mesi, perché il Milan è atteso da una rincorsa direi impossibile per il campionato, ma sicuramente con la prospettiva di proseguire in Champions League, e quindi Balotelli ha la possibilità di ritrovarsi e di dare il meglio di se stesso. Poi c'è il Mondiale, che è l'altra sfida che certamente lo può valorizzare ulteriormente. Sì, ci sono i presupposti perché resti a gennaio a Milano, poi anche qui in estate sarà poi tutta un'altra partita. Si vedrà, perché ci sono evidenti ricadute di bilancio dal fatto che il Milan non farà la prossima Champions League. Pier, comunque mi pare di poter sintetizzare che abbiamo un po' le pezze lì, cioè un anno fa abbiamo salutato il ritorno di Balotelli, di Pepito Rossi, non so, quest'anno ho l'impressione che siamo messi peggio, Pier? Ma sì. Ma in realtà secondo me no, nel senso, allora, la situazione economica del calcio italiano, l'Audisa lo potrà confermare, chiaramente non è quella delle aristocrazie in questo momento. Abbiamo ancora un po' di prestigio, e questo non ce lo toglie nessuno, e questo fa sì che giocatori come Tevez, come lo stesso Llorente, come Gomez, come Pepito Rossi, come Higuain abbiano accettato queste destinazioni, e secondo me questo fascino qui ce l'abbiamo ancora un po'. Certo, se facciamo la guerra muscolare sul cash, è chiaro che se, come si diceva prima, è chiaro che se a un certo punto il Paris Saint-Germain si mette a fare la guerra, il muro, sì, no, contro, non possiamo muro reggere. Juve, e offre 50-60 milioni del Pogba, ma che devi fare? Ciò non toglie che fra Mata, ad esempio, cito alcuni dei nomi scritti, Mata, Lamela, Dzeko, Lavezzi, ad esempio per l'Inter, io faccio fatica a trovare uno, Carlo, che abbia più del 20% di possibilità di arrivare in Italia, dico, oggi si parla di Mata anche al Napoli. Ma io non credo a questa ipotesi di Mata in Italia, perché per motivi tecnici, perché l'Inter non ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche, non a caso Mazzarri ha indicato Lavezzi in primis e Lamela in alternativa, e al Napoli credo che dalla cintura in su i problemi non esistano, tant'è vero che la campagna di rafforzamento verte sul qualificante Antonelli, su Gonalons del Lens e del sogno Mascherano. Questi sono i nomi. Sì, davanti non ci sono problemi, anzi di qualità ce n'è tantissima. Pier, abbiamo ancora un paio di minuti, poi dobbiamo lasciare Carlo, se hai qualche domanda che gli farai lunedì sera, che vuoi anticipare. No, io vorrei capire da lui se si aspetta, visto che siamo all'inizio del mercato, se si aspetta una sessione scoppiettante. A me sembra che ci siano tante cose che si possono incastrare, mi sembra che anche il Mondiale rappresenti una spinta per tanti giocatori che non possono assolutamente permettersi la panchina in un momento come questo, quindi io mi aspetto un mercato molto non ricco dal punto di vista monetario, magari più pieno di fantasia che di soldi, ma ho la sensazione che si muoveranno tutte, o mi sbaglio? Sì, qualcuno arriverà di questi, perché come hai ben detto tu, ci sono comunque ad altissimo livello troppi giocatori scontenti per non ambire a una vetrina italiana. Quindi le ultime due settimane certamente animeranno il mercato. Io volevo tornare un attimo al discorso di Pogba. Prego. Perché io credo che il caso di scuola sia proprio quello di Zidane. Quella era una Juve poderosa, era una Juve che gestì in maniera esemplare la cessione di Zidane al Real Madrid per 75 milioni di euro, ricordiamolo. Sì, e poi costruì un ciclo vincente. Beh, comprese Buffon, Thuram e Nedved. E quindi quella, diciamo, che sia la prospettiva da indicare consolatoria, se eventualmente davvero Pogba dovesse partire. Quindi sì, anche se Pogba è un prospetto inizio carriera, credo che la cessione sarebbe dolorosissima anche a livello di immagine, ma non solo, penso per la Juventus, Carlo, in generale vuol dire che veramente non abbiamo la forza per trattenere, siamo una stazione di passaggio. Ma del resto Agnelli, se non sbaglio, aveva usato proprio queste parole, sì, a Londra qualche mese fa, quando aveva parlato proprio di Pogba. Grazie Carlo. Grazie a voi. Allora ti ritroviamo oltre che sulla Gazzetta lunedì sera. Lunedì sera Tiki-Taka, 23:05. Faccio tutti i dettagli. Impegno preso in diretta. 800-24-0024. Sai che mi sono dimenticato di chiedergli dove va D'Ambrosio, Pier? Al Milan, te lo dico io. Al Milan, lo sì. Diamo al 100% fatto? No, no, però diciamo, però secondo diciamo me che ci va. Poi c'era un'amica che ci scriveva un SMS anche per chiedere se ci sono novità su Guarin. Secondo me la novità è che Guarin, se se arriva un minimo di contante parte. Massimiliano da Napoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie per la convocazione. Prego. Ma io stavo pensando che se la Juve dovesse vendere Pogba, no? Come sì. può pensare di vincere la Champions League? Che ormai l'obiettivo è quello, il campionato lo vince anche con Padoin titolare. Ma la Champions come la vince senza tenere i suoi gioielli? Deve solo investire la Juve ora, fare cassa e spendere un acquisto buono ogni anno. Ma fare cassa come la fai? Io sono d'accordo, è chiaro che l'ho detto prima, per me Pogba tecnicamente è un giocatore che è proprio incedibile con la I maiuscola, nel senso che un ragazzo così giovane e così forte dà tutta la sensazione di poter essere per anni il miglior centrocampista d'Europa o comunque fra i migliori centrocampisti d'Europa. È pure vero che poi alla fine ci sono esempi e storie di successo che passano anche attraverso cessioni eccellenti, come diceva prima Laudisa, fondamentale è vendere bene. Io poi auguro alla Juve di tenerlo, però è chiaro che questa è la dimensione del calcio italiano e la Juve che la rappresenta in questo momento nel modo migliore, perché comunque numeri alla mano è la prima squadra d'Italia, anche la Juve di fronte a offerte pazzesche di società come il Paris Saint Germain, come il Manchester City, come il Real Madrid, sì, non può fatica. Competere, non può reggere. Oppure se regge però magari perde un'opportunità, magari fai incassi 50-60, incassi i soldi dell'ingaggio che altrimenti dovresti dare al giocatore, perché è chiaro che se a Pogba offrono 7 da un'altra parte, tu magari a 7 non ci arrivi, ma a 5 ci devi arrivare, non puoi pensare di tenerlo a 2, tanto per fare un esempio proprio in soldoni. Quindi è difficile, ma non è un problema solo della Juve, anzi la Juve della realtà italiana è quella che probabilmente sta meglio. Juve e Napoli mi sembra in questo momento le società che stanno messe meglio da questo punto di vista economico, ma oggi la strada del calcio italiano purtroppo è quella, che il successo passa anche attraverso delle supercessioni, il caso della Roma di quest'anno lo dimostra. Certo, Gianna da Reggio Emilia, 800 24 00 24, alle 14.30 cominceremo la lunga vigilia di Juventus-Roma. Gian. Sì, buonasera. Sì, buon pomeriggio. Grazie per la convocazione. Io vorrei fare una piccola critica, nel senso che adesso ho capito che la Roma è più forte della Juventus, io non penso, però Totti in campo è un giocatore in più, quindi per me se la Juve sta più attento alle cascate rocambolesche di Totti, nel senso che basta una piccola tocca si butta. Dice che simula un po', Gian. Di dove sei, Gian? Sì. Sono della Costa d'Avorio. Sì. Grande, quindi amico di Drogba. Sì. Per quello, quindi io conosco bene Totti, se la Juve gioca più furbo su Totti penso che ce la fa, ecco, grazie. Pier. Grazie Gian, e buon anno, anzi buon anno. Io penso che, io non so, adesso entriamo in qualche modo, qualche minuto d'anticipo sul tema che affronteremo dopo le 14.30, io non penso che la Roma sia più forte della Juve, però penso che Totti una frase del genere per caricare la truppa oggi se la può permettere. E cosa doveva dire? È il capitano della squadra, doveva dirgli andiamo battuti. Ci sono anche segnali psicologici, no? Cioè una frase del genere tre mesi fa sarebbe, non riuscivi neanche a pubblicarla, no? Sembravi pazzo. Oggi Totti la può dire e probabilmente questa è la consapevolezza che all'interno dello spogliatoio della Roma ci può essere in questo momento, merito di 17 giornate pazzesche. Io credo che la Juve sia più solida della Roma e che abbia qualcosa in più, però questa è una di quelle sfide nelle quali siamo come di fronte a un pugile campione in carica e uno sfidante, e lo sfidante deve andare lì con la mentalità di uno che sa che ce la può fare, non con la mentalità di un underdog sconfitto in partenza. Quindi questo secondo me è un segnale importante. Poi io penso che la Juve abbia qualcosa in più, semmai è molto interessante l'affermazione di Totti che dice siamo più forti presi singolarmente, la Juve è più affamata. Ecco, sì, è una squadra più cattiva, più cinica, più abituata al successo. In Italia ha vinto tutto, continua a essere molto, molto affamata, semmai è veramente il marchio di fabbrica della banda di Conte. Però insomma, intanto lunedì ci togliamo... Ci togliamo tutti i dubbi. 800 24 00 24, ripartiamo proprio da questa lunga vigilia Juventus-Roma. Qualcuno ha scritto qualche nome di giocatore della Roma che sarebbe titolare fisso nella Juventus di Conte. Ripartiamo da lì, Borsa. È normale che questi 15 giorni sono stati più terribili, perché io ci ho ricamato, perché sentivo un po' l'odore. Cavolo, torna a casa. Quando A me che piace la Nutella, se ne mangi solo un cucchiaio non mi basta, ne voglio mangiare di più. Dal momento che te l'hanno fatta assaggiare, te l'hanno tolta, ci sono rimasto. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Ettore da Forlimpopoli. Carlo Pierluigi Pardo scrive: con i soldi di Pogba prendi 3 Nainggolan e mezzo. Io non so se fai un affare. Beh sì, no, poi sicuramente si arriva a un punto nel quale certi traguardi, da questo punto di vista io capisco il ragionamento dell'ascoltatore precedente, 2-3 chiamate fa, arrivi a un punto nel quale poi per vincere devi prendere i numeri più, uno, no? Devi prendere i numeri uno o non capito. Farli andare via. Per cui insomma questo ragionamento ci sta. In generale per quella che è la condizione oggi del calcio italiano, saper vendere bene, soprattutto se il compratore si chiama Paris Saint Germain, Manchester City o Real Madrid e arriva col valigione, io temo che per la società italiana, tutte, nemmeno la Juve, sia un passaggio obbligato, sia possibile resistere. Ma sì, io sarei contento, sì, io Pogba vorrei continuare a commentarlo tutta la vita, un giocatore che mi fa impazzire. Gianni da Caltanissetta. Gianni, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Volevo parlare con il dottore Totti. Sì, il dottor Totti. Che i soldi che lui ha. Aspetta, glielo passo. Che bello lo poter comprare. Allora, no, non c'è. Penso che l'unico scudetto che ha vinto l'ha vinto cambiando le regole durante il campionato. Sì. Il campionato del mondo l'ha vinto grazie a tutti gli juventini. Sì, ci ha messo anche il suo, Gianni. Come? Ci ha messo anche il suo Totti nell'avventura del 2006. Sì, infatti segna molte rigore, la metà dei gol va tutto sul rigore. Vabbè, quindi non le è piaciuto, mi pare di capire che non le è piaciuto. Vabbè, le persone, cioè la Juventus neanche risponde a queste persone, non è neanche degno di stare in Italia. Addirittura, va bene Gianni, se la faccia passare, su, dai, che domenica sera in fondo è soltanto una partita di calcio. Massimo da Cagliari. No, passiamo una cosa, sì. Su Totti, scusa, soltanto su un argomento. Sul fatto di uno scudetto, Totti ha vinto poco. Totti ha vinto poco, e se ci mettiamo a fare gli psicanalisti, forse c'è stata anche un po' di pigrizia, oltre che tanto amore, nella sua scelta di rimanere alla Roma. Ma in un mondo del calcio come quello dove viviamo, che ogni giorno si lamenta del calcio moderno e non ci sono le bandiere, si pensa solo ai soldi, poi si critica uno come Totti che passa 20 anni nella stessa squadra perché comunque è innamorato di quella squadra lì e accetta di vincere di meno, perché è ovvio che la Roma ovviamente storicamente vince di meno rispetto al Real Madrid o al Barcellona. Ecco, io questo veramente faccio fatica a capirlo. Lo si può criticare per mille motivi sicuramente, ma insomma per questa che è una scelta romantica mi sembra veramente, ecco, sarebbe come criticare Del Piero perché ha fatto 20 anni alla Juve. In più Totti li ha fatti in una squadra che in questi 20 anni non è stata nemmeno sempre competitiva per poter vincere, per cui io da questo punto di vista, se siamo dalla parte del romanticismo, penso che dobbiamo battere le mani a Totti. Non credo a Totti, a Maldini, a Viessanetti, a tutti quelli come lui. Magari anche a De Rossi, che oggi sul Corriere dello Sport dice: fossi andato a Manchester, adesso mi sarei ucciso, che, insomma, con quello che è venuto fuori in questa stagione della Roma. Massimo da Cagliari, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie per la convocazione. Prego. Io sono un interista depresso, diciamo. Sì, non è l'unico, c'è chi scrive anche, quindi... c'è chi scrive anche Franco da Mantova. Da interista ringrazio Toir che ci ha salvato dal fallimento e dalla Lega Pro. Nessuna illusione su acquisti importanti, troppi debiti. Prego Massimo. Appunto, la questione è questa, insomma, bisognerebbe volare un pochettino più alto perché il posto nostro è quello, insomma, noi dobbiamo stare con, non dico con le migliori in Europa, visti i chiari di luna, ma insomma, essere un po' più competitivi, almeno sul panorama, sullo scenario nazionale, non dispiacerebbe. Invece qui, a quanto pare, la Mela non viene, la Vezzi non viene, Guarin parte. Insomma, con Cambiasso, tanto di cappello, e Zanetti non è che si vada troppo lontano. Quindi mi chiedo e vi chiedo, ma questo signor Toir, i danari, insomma, da buttare sul piatto ce li ha oppure sarà per un'altra volta? Caro Massimo, io credo che ce li abbia, credo però che non farebbe il bene dell'Inter. Si comincia mettendo le fondamenta, certo, se questo è il mio parere, se nell'arco di 2 o 3 anni poi non seguisse a questa seconda parte dell'operazione austerity un programma di rilancio con investimenti adeguati, allora probabilmente qualche dubbio può venire. Però mi sembra che in questo momento una società di calcio con i fondamentali dell'Inter non possa prescindere da un sano bagno d'umiltà, Pier. Sì, assolutamente, ma la sensazione ce l'abbiamo avuta subito, che sarebbe stato un progetto così attento dal punto di vista economico. Non bisogna nemmeno dimenticare che l'investimento importante è stato fatto per ripianare i debiti, questo non va dimenticato, perché altrimenti secondo me gira intorno a una realtà che invece quei soldi lì li ritroviamo, la spesi, li ha messi sul piatto. Detto questo, che dobbiamo dire al tifoso? È vero che io lo capisco perfettamente. Sì, almeno di non essere depresso. La vita del tifoso magari sarà un percorso lungo, ma c'è. Sospesa fra l'austerity da un lato, le società, i bilanci sani, il progetto a lungo termine e la vertigine degli acquisti. Pensate alla Lazio o al Parma degli anni 90, no? Quello che poi hanno lasciato purtroppo, non soltanto dal punto di vista calcistico, in termini di dissesto e di risparmiatori piuttosto arrabbiati. Però è chiaro che se tu parli con quel tifoso della Lazio, quel tifoso del Parma, rimpiangono quelle giornate, quelle partite. Il calcio è un'illusione certe volte, no? Certe volte veramente il presidente migliore è quello che magari è il peggior manager, in certo è quello che si rovina. Fa delle cose che non si potrebbe permettere di fare. Ci giochiamo Juventus-Roma con due ospiti doc, caro Pier. Certo. Carmine Fotia, direttore del Romanista, e Claudio Zuliani, voce tifosa di Mediaset Premium. Ciao a tutti e due, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ciao belli. Aug everybody. Aug. Da dove partiamo, Carmine Fotia? Partiamo da Rizzoli, piace, non piace, visto che fatalmente di arbitri si parlerà. Allora, leviamoci via subito il dente. Ma non, quest'anno io credo che sia giusta la scelta di non commentare prima, commentiamo dopo. Commenteremo dopo. Claudio? Commenteremo dopo. Quest'anno, diciamo, ce ne hanno fatte già molte, troppe direi. Ma non solo a noi, insomma, in generale mi sembra una qualità molto scadente. Comunque io partirei dal fatto che si rinnova finalmente per noi della Roma, che in questi ultimi 2-3 anni siamo stati in difficoltà, si rinnova finalmente il grande duello calcistico, è stato l'unico vero duello calcistico dell'ultimo periodo, che è quello tra la Juventus e la Roma, insomma, cioè la Roma è stata l'unica squadra che è riuscita a intaccare nel corso di un ventennio quello che sembrava lo strapotere juventino. Insomma, la parentesi dell'Inter è stata una parentesi, come si dimostra, abbastanza fuggevole, però è chiaro che bisogna credere, ecco, su questo invece io penso che bisogna credere nei progetti a lungo termine, perché di effimero nel calcio ormai purtroppo non c'è più nulla, non funziona più nulla. E questo di Garcia, di Pallotta, a livello societario ti sembra un progetto a lungo termine? Mi sembra che oggi venga a compimento una cosa per la quale siamo stati presi molto, molto in giro, noi del Romanista in particolare, che ci abbiamo creduto fin dall'inizio, è il progetto, tosta il progetto, no? Sempre a prendere in giro su queste cose, si è visto che poi ovviamente tra molti errori che ci sono stati, però il progetto c'era, che era di far tornare la Roma a essere una delle squadre protagoniste in Europa, e quest'anno sicuramente questo obiettivo è stato finalmente raggiunto, con una squadra che gioca un bel calcio. La Juventus è una squadra molto forte che dovrebbe per prima rifiutare i favori che purtroppo gli arbitri continuano a fare, perché è forte di suo. Lo chiediamo direttamente a Claudio Zuliani. Claudio, rifiuti? Sì, sono assolutamente d'accordo, io ho rifiutato lo scudetto con le regole cambiate in corsa di Nakata, infatti l'ho lasciato alla Roma volentieri, ho rifiutato quello di Perugia, infatti l'ho lasciato alla Lazio volentieri, Rizzoli va benissimo, e quello di Fiorentina-Juve, Aquilani deve essere espulso dopo 5 minuti, e rigore inesistente che riapre la partita, ma queste cose non le dice mai nessuno, tutto il resto va bene, noi pensiamo al campo. Va bene, e questa sfida con la Roma, diceva Carmine Fotia, torna una sfida che è stata la partita che negli ultimi 20 anni è un po' il segno del calcio italiano. La vivete così o no? No, l'avversario della Juventus Principe è sempre la seconda squadra di Milano, da sempre, per storia. E negli ultimi 20 anni è stato il Milan. Cioè, sinceramente, questa sfida con la Roma non l'ho mai né vista né sentita, se non un paio di circostanze negli anni 80. Ma non è una sfida classica per la Juve. Può essere per la Roma, per la Juve è con l'Inter. Pier? Beh sì, io credo che sia chiaramente più sentita da Roma che da Torino, comunque dalla Juve, è un po' lo stesso discorso secondo me che c'è nella rivalità fra Fiorentina e Juve, che è una rivalità molto forte, ma una rivalità sentita soprattutto dalla Fiorentina. Negli anni '80 ci sono state pagine epiche di quella storia lì, veramente in punta di penna, in punta di dichiarazione, fra Viola e Boniperti, magie, Falcao, Platini, insomma è chiaro che quello, tutto quello è successo, non è che ce lo siamo sognato. Poi però sono successe molte altre cose in questi ultimi anni, credo che per esempio la rivalità più polemica degli ultimi anni, Zulians me lo confermerà, è stata sicuramente quella con l'Inter, per motivi assolutamente, per no, tanti, ma a me, motivi. A me piace, lo dico perché proprio sono su una bellissima pista da sci col cane che gioca con la palla quindi non sono ancora ritornato nella civiltà dei veleni. Quindi lo posso dire oggi, magari domani cambio idea, però a me piacerebbe che questa partita, come tutte le altre dove invece si parla di cose diverse, fosse affrontata come lo fanno i due capitani, cioè Buffon da una parte e Totti dall'altra nelle dichiarazioni, ma mi rendo conto che è pie illusio. Sì, renditi conto comunque che Totti la battutina sugli aiuti arbitrali l'ha fatta. Non è quello che fa Totti e De Rossi al Romanista, o uno a Inter Channel o l'altro a Juve Channel. Cioè Totti e Buffon, quando si parlano tra di loro sui giornali, dicono certo. Altre cose. Assolutamente. No, a proposito di questo... Ma questo è sicuro, come Carmine. È sicuro che in questo momento tra le due società ci sono dei rapporti buoni. Io penso che sia... Sì, c'è addirittura sempre, un'alleanza. Sia sempre opportuno... Diciamo che la rivalità rimanga confinata sul campo. Il problema purtroppo è che qualcuno, come hanno dimostrato innumerevoli processi negli anni scorsi... Veramente al momento i processi dicono che i campionati non regolari, ma forse la gente non si informa e questo è un altro male della nostra. Un attimo, se no non ci capiamo, però se parliamo tutti insieme. Io dico semplicemente le cose che sono acquisite... a livello storico, non è che sto dicendo altro. Non ho bisogno di portare le prove che sono davanti agli occhi di tutti, e poi dopodiché decide il campo sicuramente. Sentenze, ma voi non le diciamo sempre che campo, tempo, però non avete voglia. Non è che la Claudio, momento facilmente, ecco. Capisco che appunto non si voglia affrontare il nodo della rivalità con la Roma, perché questo nodo è un nodo che fa male. No, però posso dire una cosa, che secondo me scudetti dei Rolex di Nakatai, in sostanza, per esempio, la Roma ha avuto una rivalità molto più forte con l'Inter, perché negli anni nei quali la Roma post Calciopoli ha avuto una squadra che aveva la metà del budget, la rivalità era con l'Inter. Nelle ultime giornate le polemiche arbitrali sono state molto più forti con l'Inter. Addirittura la Roma è stata l'unica squadra adesso negli ultimi anni, anche il Napoli, ma fino a due anni fa la Roma è stata l'unica squadra che ha contrastato, diciamo, l'egemonia calcistica del nord, questa è la verità. Allora vi chiedo un minuto di pazienza perché abbiamo il traffico, poi vi svelo i nomi, secondo i nostri ascoltatori, dei giocatori della Roma che farebbero i titolari nella Juventus di Conte. Proviamo a uscire dal discorso dell'arbitro e degli aiutini e a ripartire da qui. Tutti convocati. 800 24 00 24, c'è chi ricorda Carmine Fotia, direttore del Romanista, i successi in 5 anni dell'Inter, altro che periodo effimero. Poi c'è chi ci chiede un pronostico secco, lo faremo prima di lasciare i nostri amici. Poi allora, i giocatori della Roma che starebbero nella Juventus di Conte come titolari, oggi Totti ha detto singolarmente, presi 1-1, noi siamo più forti, poi la Roma è più gruppo, più squadra, più affamata. I nostri amici da casa suggeriscono De Rossi, Gervinho, che sarebbe perfetto per il gioco di Conte, c'è anche chi dice Pjanic e Benatia. Claudio, tu ti prenderesti un giocatore della Roma, quale giocatore della Roma da inserire? Guarda, nell'11? Ti dico la verità, io al fantacalcio ho Totti e Gervinho. Totti e Gervinho, è sì, il posto di chi li faresti giocare? Però se metti Gervinho, vabbè, Totti è un giocatore universale, giocheresti mondiale, in 12. Non si pone il problema. No, Gervinho devi tornare al 4-3-3 se vuoi far giocare Gervinho con Conte. Attualmente nel 3-5-2 dove lo fai giocare? E tu, Carmine, ti prenderesti quale giocatore della Juventus? Buffon e Pirlo. Per la Roma, Buffon e Pirlo? Sì. Cambiando modulo? Ma per me Pirlo è un giocatore universale, in nazionale gioca benissimo con De Rossi, ha giocato anche insieme a Totti in nazionale. Pirlo è un giocatore universale, potrebbe giocare nel ruolo di Pjanic, insomma alternarsi con Pjanic, però io prenderei solo i giocatori di grandissima classe. Pierluigi, secondo te c'è qualche giocatore della Roma che farebbe il titolare, ma titolare vero, nei primi 11 di me, Conte? Allora, Vidal è il centrocampista più forte del campionato e quindi io credo che... Sì, giocherebbe ovunque. Ecco, quindi fossi la Roma prenderei Vidal. Nella Juve io prenderei forse Benatia, perché con tutto rispetto per Bonucci, cioè, la verità è che sono due squadre molto, molto equilibrate e molto solide, che hanno ottimi giocatori tutte e due, per cui alla fine è difficile dirti meglio Benatia Castan oppure Bonucci, Barzagli, Chiellini. Siamo lì, insomma, siamo sinceramente lì. Lo stesso discorso a centrocampo, insomma, non... Però ecco, secondo me Vidal sicuramente, Benatia dall'altra parte, Totti ovviamente, Totti e Pirlo sono due eccellenze, però... Va bene, Totti e Pirlo possiamo anche scambiarli. Però secondo me non è che c'hanno tutto questo bisogno di cambiarsi squadra uno con l'altro. L'eccezione, ecco, forse la farei per Vidal, perché Vidal mi sembra veramente un giocatore che per quello che riesce a dare però insomma non è che Strootman sia scarso, ecco, non so come dire. E posso dire una cosa a proposito della rivalità, che credo nel 2010, una penultima, o nel 2008, non mi ricordo perché poi sono finiti allo stesso modo, penultima giornata del campionato, Juve Catania abbastanza spompo, come direbbe Ligabue, 1-1, a un certo punto, credo fosse il 2008, sì, 2008, Inter-Siena, cioè il pareggio del Siena, che tiene in vita ancora la Roma in corsa per il campionato e che allunga tutto all'ultima giornata, boato le tifosi della Juve, cioè il discorso della rivalità, chiaramente negli anni 80 non sarebbe mai successa una cosa del genere, negli anni 80 probabilmente i tifosi della Juve fra Inter e Roma avrebbero scelto l'Inter come il male minore, ma io mi ricordo benissimo il boato, cioè in quel momento lì la rivalità era nettamente più forte con l'Inter, chiaramente non è che... Sì, gli juventini avrebbero fatto carte false per non far vincere quello scudetto all'Inter. Quindi insomma, ogni epoca secondo me ha la sua storia. Se torniamo agli anni 80, la questione dei centimetri, per carità, è tutto un altro mondo, insomma, ma oggi secondo me quella storia lì è passata. Facciamo i pronostici, chi comincia a sbilanciarsi? Carmine Fottia? No, neanche morto, comunque loro sono più forti. Sì, ma ti aspetti una partita come impatto simile alle ultime avventure della Roma a Torino? No, cioè no, l'impatto intendo, no, io adesso non dico prendere tre gol in 20 minuti, però con una Juventus che proverà a risolverla subito. Mi aspetto che sia il contrario, non credo che la Roma di quest'anno, la Roma di Garcia, non credo che vada a Torino, diciamo così, per fare una partita difensiva. No, la Roma non è abituata a giocare così, la Roma gioca ovunque nello stesso modo, con equilibrio ma con una squadra molto offensiva. Tra l'altro c'è anche questa curiosità, lo dico agli amici a casa, che tra qualche minuto Garcia farà riprendere in diretta il suo allenamento a due giorni da Juventus-Roma, non so se c'è scaramanzia, se è quasi un gesto di sfida, un atto di forza, come possiamo leggerlo, Carmine? Hai detto un atto di forza, mi sembra una bella definizione. In questi giorni mi sono, diciamo così, durante le vacanze di Natale mi sono disteso guardando la saga di Star Wars su Sky, e quindi che la forza sia con noi mi sembra un bel inizio. Claudio, pronostico? Guarda, io in genere non li faccio neanche io, ma perché li sbaglio. No, però... e quindi lo devi fare. E quindi lo devo fare, li massacriamo 4-1. No, se no non ti facciamo tornare a sciare. Quindi 4-1. No, ma sono serio, guarda, non scio neanche, sto troppo bene col cane sulla neve. Siccome la settimana è stata molto velenosa come presentazione, quando succede così ne facciamo 4 in casa, 4-1. Quindi 4-1 per la Juve, Pier. No, il prossimo non lo faccio, voglio dire una cosa però, perché veramente... Ma avete paura tutti di fare un pronostico? No, per me la Juve è favorita, tendenzialmente è favorita, però... Ma lo dico però, anch'io, anche secondo me, anche se non sarà una fotocopia degli ultimi anni a Torino e anche se non chiuderà lo scudetto, però insomma, allora, per questa partita è favorita, Pier, io mi sbilancio. Tutto si sta però normalizzando, cioè la Roma era più 5, adesso la Juve è più 5, quindi la sensazione, la tendenza è quella che la Juve si sia ripresa la leadership. Però, insomma, la partita è aperta, la Roma non ha mai perso in 17 giornate, la Juve spesso nella prima partita dell'anno soffre, come è successo l'anno scorso con la Samp, anche se ovviamente magari stavolta la situazione sarà un po' diversa. Insomma, secondo me è complicato fare il pronostico. Sul discorso invece dell'allenamento a porte chiuse... No, porte aperte. A porte aperte, scusami, secondo me le cose che dovevano provare le hanno già provate e io ho assistito a sessioni di allenamento aperte e divertenti, per esempio di Barcellona e Manchester United prima della finale di Roma, o prima inutili dal punto di vista tattico. Non vuol dire niente, se non secondo me un segnale bello da parte di Garcia che ci mette la faccia, che espone la squadra comunque all'abbraccio dei tifosi. Questo ci comunque sta. Noi siamo qui, poi cercheremo di raccontarvi anche se si scopre qualcosa. Un saluto a Carmine Fottia e Claudio Zuliani, ciao a tutti e buona partita. Ciao belli. A voi e sui pronostici, poi ci sentiamo lunedì. Vabbè. Non c'è dubbio, allora martedì. No, lunedì. Sbagliarli, bisogna farli. Bisogna farne, quindi il pronostico c'è, 4-1 per la Juve di Claudio Zuliani. Carmine Fotia non l'ha fatto, ma ha detto che la Juventus è più forte. Tutti e due li risentiamo, noi sabato siamo in onda, sia dalle 14 alle 15 che dalle 17 alle 18.30, quindi sia per il lungo commento di Juventus-Roma che poi per il commento della giornata fino al fischio d'inizio di Lazio-Inter. Grazie a tutti, ciao Carmine, ciao Claudio. 800-24-0024, Pier, ti faremo fare gli straordinari lunedì, Sì, sì. Oggi invece alle 15.30 c'è il match Lotito-Petkovic. Anche se Lotito non va, manda i suoi avvocati, ne resterà solo uno. Chi resta? Lotito, sai che io non ho ancora capito perché, al di là di magari risparmiare qualche euro, perché abbia tirato in piedi questa cosa Lotito, che a me sta simpaticissimo, però tu hai capito? No, io non l'ho capito. Che hai frequentazioni? Io penso che sia per risparmiare qualche euro, sinceramente. Non vedo altri motivi se non quello economico. Dal punto di vista dell'immagine non è una grandissima figura, no? Che finisca così. Una storia che oltretutto è stata una storia di successo, perché insomma, io credo che i tifosi della Lazio si siano goduti, anche grazie a Petkovic, una delle più belle soddisfazioni della loro vita. Perché vince la finale di Coppa Italia contro la Roma in quel modo, credo, e invece è finita a stracci. E invece purtroppo è finita a stracci. Ti faccio sentire Chiellini pochi minuti fa a Mediaset Premium. Entrando nel vivo della gara, Totti questa mattina sul Messaggero ha detto: sì, la Juve è forte, però ha sempre un aiutino. Tu come commenti queste parole? Vabbè, lo sai, ognuno ha il proprio parere. Credo che stiamo dimostrando sul campo negli ultimi 2 anni e mezzo di essere i più forti. Lo dimostriamo ogni domenica e lo vorremmo sicuramente dimostrare anche domenica prossima. La Roma sta facendo un gran campionato, bisogna darle merito di un inizio strepitoso che rimarrà nella storia. E non credo che sia così facile avere la continuità per tutto il campionato. Sono imbattuti e c'è tanta voglia di confrontarsi con loro e vedere se saranno così bravi anche domenica sera. Io lo so che il tema ti piace, quindi te lo riproporrò anche domenica nella lunga vigilia che dedicheremo dalle 17 alle 19 per Juventus-Roma. Castan. Non lo so se quello che vince vincerà il scudetto, però sicuro che quello che vince starà più vicino, però pensiamo gara a gara, adesso è a Juve e per me la gara che arriva è sempre una finale e questa è più finale perché è la squadra che è a capolista e siamo concentrati per fare bene e per vincere lì. Alessio da Milano, 800-24-0024. Alessio. Buongiorno e grazie per l'opportunità. Grazie a te. Mi riaggancio alla questione mercato, avete trattato poco fa, io sono tifoso juventino, non faccio pronostici ovviamente per domenica perché non ne ho il coraggio. Penso alla questione legata a Pogba e al mercato, diciamo così, che ci vede come nazione leggermente regredito rispetto alle altre. Non la vedo in questo modo, vedo centri di potere economici, sportivi ovviamente in questo caso, che affascinano molto più i procuratori che non i giocatori. Vedo molti giocatori scontenti una volta accettate le danarose proposte di grandi club europei, per poi in realtà dopo pochi mesi pentirsi. Sì, anche se si pentono, mi pare di aver capito che non tornano però, Alessio, perché in questo momento noi siamo questi. Qualcuno scriveva chiedendo se la nuova tassa Hollande, che tra l'altro pagheranno i club e non i giocatori in Francia, il 75% di tasse, in qualche modo può bloccare il mercato del Paris Saint-Germain. Così a occhio, Pierre, a spanne, direi che non bloccherà un bel niente. Direi di no. No, ma insomma la dimensione nostra è questa, noi viviamo un po' di passato, che significa di tradizione, di storia, e comunque certi giocatori riusciamo ancora a prenderli perché evidentemente tutto questo sta, questo tipo di situazione ancora ce la portiamo dietro e ci può dare ancora dei benefici. Però insomma, al di là di questo, io credo che ci sia una difficoltà oggettiva, che non vuol dire che siamo meglio dei club olandesi, ma siamo peggio di quelli inglesi, spagnoli e del Paris Saint Germain e dei tedeschi, Monaco, e dei tedeschi strettamente economico, sì, e di qualche tedesco sicuramente. Salvatore da Caserta. Salvatore, pronto? Sì. Salve, buonasera. Senta, era il mio amico, comunque posso intervenire io per lo stesso tema. Sono Michele Caruso da Marina di Stromboli, prego, in provincia di Crotone. Prego Michele. Dunque, salve, io sono un ci può dare anche il cap, perché se no non possiamo accettare la telefonata. No, ci deve dire il cap, ci deve dire il cap. Ah, allora, no, Marina di Stromboli è una ridente località balneare che si affaccia sulla costa ionica in provincia di Crotone in Calabria. Hai dunque visto, il cap è 88-815. Michele Caruso sono io. Okay. Dunque, sentite, io vi seguo sempre e vorrei chiedervi una cosa. Sì. Dunque, rispetto al big match al vertice, ormai mancano due partite dopo la pausa festiva, appunto, sì, al termine del giro di boa, direi che 5 punti pesano come un macigno, perché naturalmente prima eravamo all'inizio di campionato in 10 di filotto da Roma, adesso anche se la Roma, che credo sia veramente poco verosimile il risultato quanto improbabile dovesse fare centro ed espugnare lo Juventus Stadium, naturalmente sono 5 punti in 2 partite, veramente non ci credo. Quello che volevo chiedere piuttosto, quindi, visto che comunque anche così i bookmaker danno Juventus per strafavorita, come è logico che sia, io vorrei chiedere, leggendo anche l'intervista da parte al nostro capitano, che non è un mercenario, insieme a Totti, che sono le uniche vere bandiere, siamo in chiusura, caso, però Michele, sì, a concludere, lui dice naturalmente questa Juventus dell'Australia può vincere tutto. Io vorrei dire, secondo voi, con una Roma comunque potrebbe fare qualche giusto innesso adesso col calcio al mercato, se può vincere o meno questa Juventus, può vincere anche l'Europa League in casa a Torino, visto che non mi sembra poi così. Grazie Michele, la mia risposta è sì. Pier, la tua la sentiamo domenica, la tua la sentiamo domenica, perché siamo in sigla. Ci fermiamo qui, grazie a Franco Piantanida, autore di questa puntata, Fabio Cantadori in regia. Appuntamento domenica dalle 17 alle 19 per la vigilia di Juventus Roma. Un saluto anche da Giovanni Capuano.